Avventurieri, questo enigma è abbastanza semplice, quindi per questa volta non ci saranno indizi aggiuntivi. Confido nelle vostre capacità di risolverlo da soli, ma ricordate, se mai doveste avere bisogno di una mano in futuro, gli indizi saranno sempre a vostra disposizione.